un fuoco sulla terra. Fuori dalla casa, vicino al muro di legno di fronte alla porta, papà tagliò l'erba e ripulì il terreno. Si stava preparando a costruire il camino. Poi lui e mamma misero nuovamente la struttura del carro sulle ruote e papà attaccò Pet e Patty. Il sole si alzava, accorciando le ombre. Centinaia di allodole si sollevavano in volo dalla prateria, cantando sempre più in alto nel cielo. Il loro canto scendeva dal cielo grande e limpido come una pioggia di musica. E sulla terra, dove l'erba ondeggiava e mormorava nel vento, centinaia di piccoli uccelli aggrappati all'erba con le loro zampette cantavano centinaia di canzoni. Pet e Patty fiutavano nel vento e nitrivano di gioia. Piegavano il collo e pestavano i piedi perché non vedevano l'ora di partire. Papà sedette sul carro fischiettando e prese le redini. Poi guardò Laura, che lo guardava a sua volta. Smise di fischiettare e disse: «Volete venire, Laura? Tu e Mary?» Mamma disse che potevano. Si arrampicarono sulle ruote aggrappandosi ai raggi con i loro piedi scalzi e presero posto sul carro accanto a papà. Pet e Patty partirono saltellando e il carro avanzò a strattoni lungo la strada tracciata dalle ruote. Scesero tra i ripidi muri di pietra di colore giallo-rosso, corrugati da piogge ormai dimenticate. Proseguirono attraversando le collinette che costeggiavano il ruscello. Alcune di quelle colline, basse e tonde, erano coperte di alberi. Altre di erba. C'erano cervi sdraiati all'ombra degli alberi e altri stavano al sole in mezzo all'erba verde. Alzavano la testa, drizzavano le orecchie e se ne stavano lì a masticare guardando il carro con i loro grandi occhi languidi. Lungo tutta la strada il delfinio, rosa, blu e bianco, era in fiore. Gli uccelli si dondolavano sui gialli pennacchi di asterace e le farfalle volteggiavano. Le margherite punteggiavano come piccole stelle le ombre ai piedi degli alberi. Gli scoiattoli squittivano sui rami. Le lepri della prateria, con la loro coda bianca, saltavano lungo la strada e i serpenti strisciavano via velocemente quando sentivano avvicinarsi il carro. Giù nella valle il ruscello scorreva all'ombra del promontorio. Quando Laura ne guardò le creste, non riusciva più a vedere l'erba della prateria. Lungo le pareti del promontorio crescevano alberi dove la terra era franata e nei punti più rapidi, dove un albero non avrebbe potuto crescere, i cespugli restavano disperatamente aggrappati con le loro radici. Lassù in alto, sopra la testa di Laura, le radici uscivano dal terreno. «Dove sono gli accampamenti degli indiani?» chiese Laura a papà. Lui aveva visto gli accampamenti abbandonati. Qui sul promontorio, ma era troppo occupato per mostrarglieli adesso. Doveva procurarsi le pietre per costruire il camino. Voi bambine potete giocare, disse, ma non sparite dalla mia vista e non entrate in acqua e non giocate con i serpenti, ce ne sono di velenosi da queste parti. Così Laura e Mary giocarono vicino al torrente, mentre papà prendeva le pietre e le caricava sul carro. Guardarono gli insetti acquatici dalle lunghe zampe pattinare sulla superficie dell'acqua, immobile come uno specchio. Corsero lungo le rive per spaventare le rane verdi e bianche e ridevano quando queste saltavano per rifugiarsi in acqua. Ascoltarono il richiamo dei colombi tra gli alberi e il canto del mimo rossiccio. Videro le sanguineruole nuotare tutte insieme nei punti in cui l'acqua era poco profonda e scorreva luccicante. I pesciolini erano piccole ombre grigie nell'acqua increspata e solo di tanto in tanto uno di loro rifletteva la luce del sole con le sue scaglie argentee. Non c'era vento in riva al ruscello. L'aria era immobile, torbida e calda. C'era odore di fango e di radici umide e si sentiva il fruscio delle foglie e lo scrosciare dell'acqua. Nei punti fangosi, dove le impronte di cervo erano profonde e piene d'acqua, sciami di zanzare si alzavano con un ronzio acuto e vivace. Laura e Mary si schiacciavano le zanzare sul viso, sul collo, sulle mani e sulle gambe e rimpiangevano di non poter entrare in acqua. Faceva così caldo e l'acqua sembrava proprio fresca. Laura era certa che non sarebbe successo niente di male se ci avesse infilato un solo piede e quando papà voltò le spalle fu tentata di farlo. Laura! Disse papà e lei ritirò subito quel piede ribelle. Bambine, se volete entrare in acqua, disse papà, potete farlo in quel punto dove è bassa, potete entrarci con i piedi fino alle caviglie. Mary ci rimase solo un po', disse che i sassi le facevano male ai piedi e sedette pazientemente schiacciando le zanzare. Laura invece le schiacciava rimanendo in acqua. Se camminava, i sassi le facevano male ai piedi, ma se rimaneva ferma, i pesciolini si raggruppavano ai suoi piedi e le mordicchiavano con la loro piccola bocca. Era divertente, le facevano il solletico. Laura cercò più volte di acchiappare un pesciolino, ma tutto quello che ottenne fu di bagnarsi l'orlo del vestito. Il carro era ormai carico. Papà chiamò: "Venite, bambine!" Presero posto nuovamente sul sedile e si allontanarono dal ruscello. Attraversarono ancora una volta i boschi e le colline fino all'altopiano della prateria, dove il vento soffiava sempre e l'erba sembrava cantare, sussurrare e ridere. Erano state benissimo in riva al fiume, ma Laura preferiva la prateria, così grande, gradevole e pulita. Quel pomeriggio mamma sedette a cucire all'ombra della casa. La piccola Carrie giocava su una coperta accanto a lei, mentre Laura e Mary guardavano papà che costruiva il camino. Prima mescolò terra e acqua nell'abbeveratoio dei cavalli per ottenere un'argilla bella spessa. Lasciò che Laura mescolasse l'argilla mentre lui disponeva una fila di pietre lungo i tre lati dello spazio che aveva ripulito vicino al muro di casa. Poi, con una spatola di legno, spalmò l'argilla sopra le pietre. Sopra l'argilla dispose un'altra fila di pietre e le ricoprì all'interno con altra argilla. Fece una cassetta in basso. Tre lati erano fatti di pietre e fango e l'altro era il muro di legno della casa. Con pietre e argilla costruì un muro che arrivava fino al mento di Laura. Poi sul muro, contro la casa, appoggiò un tronco e lo ricoprì di argilla. Dopodiché mise ancora pietre e argilla tutto intorno a quel tronco. Stava facendo la canna fumaria, che diventava sempre più stretta. Dovette tornare al ruscello a prendere altre pietre. Laura e Mary non poterono andarci di nuovo perché mamma disse che l'umidità poteva farle ammalare. Mary sedette accanto a mamma e cucì un altro quadrato della sua coperta mentre Laura mescolava un altro secchio di argilla. Il giorno dopo, papà portò il camino all'altezza del muro della casa. Poi si fermò a guardarlo e si passò le dita tra i capelli. "Sembri un selvaggio, Charles," disse mamma. "Hai i capelli dritti in testa." "Stanno su da soli, Caroline," rispose papà. "Quando ti facevo la corte non riuscivo a tenerli giù nemmeno con una bella dose di grasso d'orso." Si sdraiò nell'erba ai suoi piedi. "Sono sfinito a forza di sollevare pietre." "Hai fatto un ottimo lavoro. Hai costruito un camino così alto tutto da solo," disse mamma. Gli passò la mano tra i capelli, drizzandoli ancora di più. "Perché non fai il resto con legno e argilla?" gli chiese. "Beh, sarebbe più facile," ammise. "Credo proprio che farò così." E si alzò. "Resta qui, riposati un po'," disse mamma. Ma lui scosse la testa. "Inutile rimanere con le mani in mano quando c'è così tanto da fare, Caroline. Prima finisco, prima potrai cucinare in casa, al riparo dal vento." Portò dei pezzi di legno dal bosco, poi li tagliò e li dispose come aveva fatto con i muri della casa sopra il camino di pietra. Mentre li posava, li intonacava con l'argilla. La canna fumaria era terminata, quindi entrò in casa e fece un buco nel muro con l'ascia e la sega. Tagliò via i tronchi della quarta parete, in fondo alla canna fumaria, ed ecco il camino. Il camino era così grande che Laura, Mary e la piccola Carrie potevano sedercisi dentro. A terra c'era lo spazio che papà aveva ripulito, di fronte l'apertura che aveva ricavato nel muro, sopra c'era il tronco che papà aveva ricoperto di argilla. Sui lati papà fissò spesse tavole di legno contro le pareti tagliate dei tronchi, poi fissò altri pezzi di legno agli angoli superiori del camino e ci attaccò sopra un asse di legno che fissò saldamente. Era la mensola del camino. Appena fu pronta, mamma vi posò sopra la bambolina cinese che aveva portato dai grandi boschi. Aveva fatto tutto il viaggio e non si era rotta. Se ne stava sulla mensola con le sue piccole scarpine cinesi, la sua ampia gonna cinese e il suo stretto corpetto cinese, le guance rosa, gli occhi azzurri e i capelli dorati, tutto cinese. Poi papà, mamma, Mary e Laura rimasero lì ad ammirare il camino. Solo a Carrie non interessava. Lei indicava la bambolina cinese e urlava perché Mary e Laura le avevano detto che nessuno a parte mamma poteva toccarla. "Dovrei fare attenzione con il fuoco, Caroline," disse papà. "Se qualche scintilla dovesse andare su per il condotto, Potrebbe incendiare il tetto, il tessuto brucerebbe in un attimo. Taglierò delle tavole di legno al più presto e ti farò un tetto del quale non dovrai preoccuparti. Con molta attenzione, mamma accese un piccolo fuoco nel nuovo camino e arrostì il tacchino per la cena. Quella sera mangiarono in casa. Sedettero a tavola vicino alla finestra a ovest. Papà aveva fabbricato la tavola in fretta con due assi di legno di quercia. Una delle estremità era infilata in una fessura del muro, l'altra poggiava su un piccolo tronco messo in piedi. Papà aveva levigato le assi di legno con la sua ascia e la tavola era molto bella con la tovaglia che mamma ci aveva messo sopra. Le sedie erano pezzi di grossi tronchi, il pavimento era la terra che mamma aveva pulito con la scopa di salice. Al suolo, negli angoli, c'erano i letti accuratamente sistemati sotto le coperte. I raggi del sole al tramonto entravano dalla finestra e riempivano la casa di una luce dorata. Fuori il vento soffiava e l'erba ondeggiava fino al bordo rosa del cielo. All'interno la casa era confortevole. Laura sentiva in bocca il buon sapore del tacchino arrosto. Si era lavata le mani e il viso, si era pettinata e aveva il tovagliolo legato intorno al collo. Sedeva dritta sul suo tronco e utilizzava correttamente la forchetta e il coltello come mamma le aveva insegnato. Non diceva nulla perché i bambini non devono parlare a tavola, a meno che non siano interpellati, ma guardava papà, mamma, Mary e la piccola Carrie in braccio a mamma e si sentiva felice. Era bello vivere di nuovo in una casa. Un tetto e un pavimento. Per tutto il giorno e tutti i giorni Laura e Mary erano occupate. Quando i piatti erano lavati e i letti rifatti c'era sempre un sacco da fare, da vedere, da ascoltare. Cercavano i nidi degli uccelli nell'erba alta e quando li trovavano le mamme uccello starnazzavano e protestavano. A volte toccavano appena un tenero nido che in un attimo si riempiva di becchi spalancati, affamati e starnazzanti. Poi la mamma uccello iniziava a protestare e Mary e Laura si allontanavano in silenzio perché non volevano darle troppo fastidio. Si sdraiavano nell'erba alta e immobili osservavano i pulcini della prateria che correvano e beccavano vicino alle mamme chiocce, morbide e marroni. Guardavano i serpenti striati strisciare tra i fili d'erba o rimanere immobili, al punto che solo dallo sfarfallio delle loro lingue e dallo scintillio dei loro occhi si capiva che erano vivi. Erano serpenti giarrettiera, innocui. Ma Laura e Mary non li toccavano. Mamma diceva che bisognava lasciar stare i serpenti perché alcuni mordevano ed è sempre meglio prevenire che curare. A volte c'erano grossi conigli grigi che rimanevano immobili tra la luce e l'ombra di un ciuffo d'erba, tanto che non li vedevi finché non eri abbastanza vicino da poterli toccare. Poi, se rimanevi in silenzio, potevi restare a lungo a osservarne uno. I suoi occhi tondi fissavano i tuoi senza voler dire nulla. Il suo naso si muoveva e la luce rosea del sole attraversava le lunghe orecchie, che avevano delicate venature all'interno e un pelo morbidissimo all'esterno. Il resto del pelo era così folto e soffice che non potevi trattenerti dal cercare, facendo molta attenzione di toccarlo. E poi, un attimo dopo, era sparito e il posto in cui stava seduto era vuoto, liscio e ancora tiepido del calore del suo corpo. Per tutto il tempo, naturalmente, Laura o Mary avevano tenuto d'occhio la piccola Carrie, tranne quando andò a fare il riposino del pomeriggio. Allora si sedettero al sole e dopo un po' Laura dimenticò che la piccola stava dormendo. Cominciò a saltare, correre, urlare finché mamma non arrivò sulla porta e disse: «Santo cielo, Laura, devi proprio urlare come gli indiani? Ti assicuro», aggiunse, «che tra poco assomiglierete davvero a loro, quando imparerete a tenere la cuffia in testa». Papà era in cima alla casa. Stava cominciando a costruire il tetto. Guardò giù e si mise a ridere. «Un piccolo pelle rossa, due piccoli pelle rossa, tre piccoli pelle rossa», cantò sottovoce. «No, solo due». «Il terzo sei tu», gli disse Mary. «Anche tu sei scuro». «Ma non sei piccolo, pa», disse Laura. «Quando è che vedremo un piccolo pelle rossa?» «Accidenti!» esclamò mamma. «Perché ti sei messa in testa di vedere gli indiani? Mettiti la cuffia in testa e smettila con queste sciocchezze!» La cuffia di Laura era appesa dietro la sua schiena. La tirò per i lacci e la visiera le arrivò fino alle guance. Con addosso la cuffia poteva vedere solo ciò che le stava davanti. Era per questo che la spingeva continuamente indietro, finché non le rimaneva appesa dietro la schiena con i lacci annodati sotto la gola. Si mise la cuffia in testa, come mamma le aveva detto, ma non dimenticò il piccolo pelle rossa. Questo era il paese degli indiani e Laura non capiva perché non ne vedessero in giro, però sapeva che ne avrebbe visti, prima o poi. Papà le aveva detto così, ma lei era stufa di aspettare. Papà aveva tolto il telo dal carro, da sopra la casa, ed era pronto per costruire il tetto. Per giorni e giorni aveva trasportato tronchi dal ruscello e li aveva tagliati in tavole lunghe e sottili. Pile di tavole erano accatastate tutto intorno alla casa e appoggiate contro le pareti. «Esci di casa, Caroline», disse papà. «Non vorrei che cadesse qualcosa addosso a te o a Carrie». «Aspetta, Charles, metto via la bambolina cinese», rispose mamma. Un attimo dopo era fuori con una coperta, il suo cucito e la piccola Carrie. Stese la coperta sull'erba, all'ombra della stalla, e sedette lì per cucire e guardare Carrie mentre giocava. Papà si sporse, tirò su una tavola e l'appoggiò di traverso sulle travi. Le estremità sporgevano oltre il muro. Poi si mise in bocca dei chiodi, tirò fuori il martello dalla cintura e cominciò a inchiodare le travi. Il signor Edwards gli aveva prestato i chiodi. Si erano incontrati nel bosco dove entrambi stavano tagliando la legna e il signor Edwards aveva insistito perché papà prendesse i chiodi per il tetto. Questo sì che è un buon vicino, disse papà quando lo raccontò a mamma. Sì, rispose mamma, ma non mi piace essere in debito nemmeno con il migliore dei vicini. Neanche a me, concluse papà, e non sono mai stato in debito con nessuno, ma il buon vicinato è tutt'altra cosa e gli restituirò ogni singolo chiodo non appena potrò andare in Independence. Poi papà prese i chiodi dalla bocca uno a uno e a colpi di martello li infilò nella tavola. Era molto più veloce che fare i buchi e infilarci dentro le spinette di legno, ma ogni tanto un chiodo colpito dal martello saltava via e se papà non lo teneva bene poteva andare perduto. Per questo Laura e Mary stavano lì a guardare e quando ne vedevano cadere uno lo cercavano nell'erba finché non l'avevano trovato. A volte capitava che il chiodo fosse piegato e papà lo batteva con il martello per raddrizzarlo. Non si poteva perdere o sprecare un chiodo. Quando papà ebbe inchiodato due tavole, ci salì sopra. Ne posò e inchiodò altre fino in cima alle travi. Il bordo di ogni tavola si accavallava al bordo di quella sottostante. Poi papà ricominciò dall'altro lato della casa e costruì tutto il tetto fino in cima, anche da quella parte. Rimaneva una piccola apertura tra le due tavole più alte, quindi papà unì ancora due tavole tra loro e le fissò saldamente, al contrario, sopra la fessura. Il tetto era finito, la casa era più buia ora, perché tra le tavole non passava la luce, non c'era nemmeno una fessura che potesse lasciar passare la pioggia. «Hai fatto uno splendido lavoro, Charles», disse mamma. «Sono davvero felice di avere un tetto sulla testa». «Avrai anche i mobili?» «Li farò meglio che posso», rispose papà. «Farò la struttura del letto non appena avremo posato il pavimento». Poi ricominciò a trasportare tronchi. Giorno dopo giorno, tronchi e ancora tronchi. Non smetteva di trasportare tronchi nemmeno quando andava a caccia. Metteva il fucile sul carro e tornava la sera con la sua preda sul sedile. Quando ebbe abbastanza tronchi per il pavimento, cominciò a tagliarli. Li tagliava per lungo, dividendoli a metà. A Laura piaceva guardarlo, seduta sulla pila di legna. Prima dava un potente colpo d'ascia alla base del tronco e infilava un cuneo di ferro nella fessura. Poi toglieva l'ascia e infilava il cuneo sempre più in profondità nella crepa. In questo modo la fessura si ingrandiva. Papà si batté con quel solido tronco di quercia fino in cima, lo colpiva con l'ascia all'altezza della crepa, ci infilava dentro dei pezzi di legno e spostava il cuneo un po' più su. Piano piano inseguiva la crepa su per il tronco, tirava su per l'ascia, poi la portava giù con un movimento, deciso, accompagnato da una sorta di grugnito. L'ascia tagliava l'aria e colpiva nel segno, centro. Ogni volta l'ascia andava a infilarsi esattamente dove papà voleva che andasse. Alla fine, con un suono violento e scricchiolante, il tronco si apriva in due. Le due metà rimanevano a terra, mostrando il pallido legno all'interno con una striscia scura al centro. Allora papà si asciugava il sudore sulla fronte, imbracciava nuovamente l'ascia e andava ad affrontare un altro tronco. Un giorno papà finì di tagliare i tronchi e il mattino successivo cominciò a posare il pavimento. Trascinò i tronchi in casa e li appoggiò uno accanto all'altro con la parte piatta rivolta verso l'alto. Con la vanga solcava il suolo per poter sistemare saldamente la parte curva del tronco all'interno del solco. Con l'ascia aggiustava i bordi in modo che ciascun tronco combaciasse con quello vicino, quasi senza fessure. Poi prendeva in mano la lama dell'ascia e con piccoli colpi delicati levigava il legno. Osservava il tronco di sbieco per controllare che la superficie fosse liscia e precisa. Toglieva gli ultimi pezzetti e il gioco era fatto. Alla fine passava la mano sulla superficie liscia e annuiva. Nemmeno una scheggia, diceva. Ci si può camminare anche scalzi. Lasciava quel tronco dove l'aveva sistemato e ne trascinava dentro un altro. Arrivato al camino, utilizzò tronchi più corti. Lasciò uno spazio di terra nuda come focolare, in modo che se una scintilla o un pezzo di brace fosse saltato fuori dal fuoco, non avrebbe bruciato il pavimento. Poi un giorno il pavimento fu terminato. Era liscio, duro e stabile. Un solido pavimento di legno di quercia che, disse papà, sarebbe durato per sempre. Non c'è niente di meglio di un buon pavimento di legno, esclamò. E mamma disse che era felice di non camminare più sulla nuda terra. Mise la bambolina cinese sulla mensola del camino e stese una tovaglia a quadretti rossi sulla tavola. Ecco, disse, adesso viviamo di nuovo come gente civilizzata. Poi papà riempì le fessure nei muri, ci infilò dentro piccole strisce di legno e le ricoprì con l'argilla, riempiendo ogni singola fessura. È proprio un buon lavoro, disse mamma. Il vento potrà anche soffiare, ma ora rimarrà fuori. Papà smise di fischiettare e le sorrise. Aggiunse ancora un po' di argilla tra i tronchi, la lisciò per bene e mise via il secchio. Finalmente la casa era terminata. Sarebbe bello avere i vetri per le finestre, disse papà. Oh, non abbiamo bisogno di vetri, rispose mamma. Lo so, ma se la caccia andrà bene quest'inverno, in primavera andrò a prendere dei vetri a Independence, disse papà. Crepi l'avarizia. I vetri alle finestre sono belli se ce li possiamo permettere, disse mamma. Ci penseremo quando sarà il momento. Erano tutti felici quella sera. Era bello avere il fuoco nel camino, perché nella prateria le sere d'estate erano fresche. La tovaglia a quadretti rossi era sul tavolo, la bambolina cinese luccicava sulla mensola del camino, il pavimento nuovo mandava riflessi dorati alla luce tremolante del fuoco e fuori la notte era immensa e piena di stelle. Papà sedette a lungo sul gradino dell'ingresso, suonando il violino e cantando per mamma, Mary e Laura che erano in casa e per le stelle che stavano fuori.